24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Un mese fa sembrava che ci avessi la peste, io dicevo Renzi può fare le riforme, ora sono tutti per fare le riforme. Bene, si tratta di mettersi intorno a un tavolo, o meglio ancora via email, che si fa prima, e cerchiamo di essere operativi. Questa è la settimana in cui le cose si decidono. L'ha detto! L'ha detto! Questa è la settimana decisiva! Cari italiani, l'ha detto Renzi ieri alle 6:36 minuti, buongiorno, molto in ritardo ma ci siamo anche oggi. È la settimana decisiva, si decide, 59esima settimana decisiva per la precisione, caro Presidente del Consiglio, io che tengo il conto, è la settimana in cui si decide. Entro venerdì tutto a posto. Oh, le riforme, la legge elettorale, l'abolizione delle province forse. No, quella un po' più avanti, ma... Allora, vabbè, ma d'altronde è il momento così in cui Renzi gode di questo vantaggio, di questo vento in poppa. Oggi, guardate come titola la stampa, pagina 23, parte la kermesse Pitti a Firenze, titolo della stampa, vestiremo alla Renzi. Vestiremo alla Renzi. Voglio salutare subito due espertissimi di moda, Aurora Lussana, buongiorno, direttore della Padania. Buongiorno. Qual è il capo femminile per cui puoi dire vestirò alla Renzi da oggi? Eh beh, ovviamente il tailleur della First Lady, Maria Elena Boschi. fai la brava subito, ti sei svegliata con il canino aguzzo, eh? No, mamma mia, mamma. Smettila, fai la brava, la signora Agnese, la signora Re. La First Lady politica, certo. Saluto anche dagli Stati Uniti Mario Adinolfi, Marione, buongiorno, buonanotte. Che Stati Uniti c'ho il giacchetto di pelle di Fonzi, che come sapete è il Renzi, insomma, ecco. Ma tu ti rendi conto, vestiremo alla Renzi, il titolo della stampa, per carità, non è il titolo principale oggi dei giornali, vestiremo alla Renzi. Marione, È la mitragliata di Fregnacce quotidiana, insomma, eccolo. Come si sa, cominciamo anche noi la mattina alle 6:30, per cui insomma fa parte del nostro mestiere. Quanti bei dollaroni fruscianti hai vinto al mondiale di poker? E te lo venga a dire a te, insomma. Mamma mia, ragazzi, la settimana scorsa è ancora lunga, quindi dura fino a luglio, quindi, la settimana scorsa hai detto non ho ancora iniziato, ma adesso te lo vengo a dire a te. Ma sono ufficiali le cose o cosa si fa? È una domanda inopportuna quella che ti ho fatto. No, è ufficiale, è tutto ufficiale, però insomma il conteggio si fa alla fine. Va bene. Allora che dire, qua noi parliamo di cose, è un giorno in cui, non so, sono arrivate le notizie anche in America della cronaca canera che ieri ha trionfato e oggi trionfa. Chiara è la storia terribile della famiglia Sterzana. Lasciare un'Italia così veramente quasi è di sollievo. Beh, adesso stai in America dove queste cose purtroppo succedono, succedono in tutto il mondo, però. Certo. Ossessione della strage familiare un po', no, verso i minori, insomma, sì c'è un, perché succede veramente cose incredibili. L'America dal punto di vista della cronaca nera è certi impressionante, ma anche un sistema di giustizia, vuol dire, in cui gli americani credono moltissimo. Io invece ho notato che adesso sull'arresto del presunto assassino di Chiara già c'è la divisione sui social network, se usare il presunto è giusto, non sì, è giusto, sì. Tutta una serie di dibattiti che qui in America vengono delegati al sistema giustizia che funziona e Ovviamente se funziona bene, funziona male, la gente ci crede molto nel sistema, mm-hmm. sistema americano. Da noi è tutto un po' più... è tutto un po' più labile. Però vorrei capire, allora Aurora, tu che sei bergamasca, insomma dobbiamo partire da qui, perché questa cosa ha veramente terremotato un'intera terra, scoprire che l'assassino o presunto assassino, effettivamente dobbiamo usare questo termine, è uno del paese, ecco, una persona, tre figli, 44 anni, no? È l'orco della porta accanto, è la dimostrazione che siamo tutti figli di Caino alla fine, che il male è connaturato in noi e proprio per questo non dobbiamo mai illuderci che arrivi un orco che rappresenti tutto il male, così che sia anche una liberazione psicologica, quella di dire boh, c'è un capro espiatorio, c'è qualcuno da cacciare, c'è il cattivo del villaggio da cacciare, adesso speriamo che sia davvero lui e adesso so che è già il Gleno e speriamo che sia lui, stia lì al Gleno per tutta la vita. Il Gleno è il carcere? Il carcere di Bergamo. Il carcere di Bergamo. Sì, insomma, poi c'è l'altro che voglio dire, oggi le prime pagine dei giornali sono tutte legate alla cronaca nera, c'è l'altro di Motta Visconti che è incredibile, ammazza la moglie e i due figli, uno di 5 mesi e poi si fa la doccia tranquillamente, va a vedere la partita dell'Italia. Che c'è da dire? Non è che c'è molto da commentare, c'è da raccontare la cronaca e basta, ma poi ognuno, insomma, qualsiasi parola è una parola in più. O no, Aurora? Che... lì forse l'unica cosa che si può dire è che bisognerebbe introdurre il reato di favoreggiamento anche tra i familiari, perché ad esempio la mamma dell'assassino lo sapeva da più di un anno che la procura di Bergamo stava cercando il figlio illegittimo del fautista Guerinoni di Gorno, quindi la signora lo sapeva da più di un anno, è stata zitta, non lo so, c'è questo familismo morale, questa sacralità della famiglia, per cui non lo so, se io sapessi che mio parente forse c'entra qualcosa in un omicidio del genere mi dovrei sentire responsabilizzata, no, è chiaro. E denunciarlo. È chiaro. Ma insomma, comunque papà, staremo a vedere. Quello che però sui giornali c'è che la persona arrestata per l'omicidio Gambirasio dice mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Pare, secondo Repubblica, abbia detto sono sereno, questo ai magistrati. Sì, l'avvocatessa ha detto che l'assistito è sereno. Vabbè. E vabbè, ma comunque ne parleremo poi alle 8:15 con Gianluigi Nuzzi. Qui vogliamo buttarci un po' su cose, le cose anche politiche, eccetera. Allora, Aurora Lussana, sai con come apre il quotidiano La Padania, caro Mariona Di Rolfi? Puoi scendere giù a comprarla a Las Vegas, tra l'altro. Lui è un grande giocatore di poker, ci arriva, dai, su. Dai. Indovina un po' su quale... No, indovina un po' su quale tema può aprire La Padania. Così, dai. Facciamo. Che mi apre? Sull'immigrazione. Sull'immigrazione, guarda, incredibile. Troverebbero bene qui in America. Sì, effettivamente. Sull'immigrazione, caro Mariona Di Rolfi, grande apertura. Renzi, dove sei? C'è la foto di un barcone. Sì, perché Renzi non ci vuol mettere la faccia, lui uomo di marketing sente puzza di bruciato e non ci va in Sicilia. Ieri c'era Salvini che ha incontrato Alfano che comunque con tutti i suoi limiti almeno in Sicilia ci è andato. Capito Mario, Salvini ci va in Sicilia dove a Maletto in provincia di Catania la Lega è il primo partito, mentre Renzi no, non ci mette la faccia, Marione, visto? Guerre fra Matteo che si regolano fra di loro, insomma, diciamo che con tutto il rispetto per la Lussana siamo dei minimis, nella giornata di ieri proprio dei minimis, perché ieri mi pare politicamente è successo un po' di tutto, insomma, ma politicamente, ma che vuol dire? Cioè, allora Renzi che dice la settimana decisiva, dai Mario dimmi qualcosa, dai, su qui. La settimana decisiva. Vabbè, ovviamente non è la settimana decisiva, però l'incardinamento di un possibile rapporto con i 5 Stelle mi pare una cosa interessante. Ma a quale... parte la proposta elettorale 5 Stelle, che è una cosa che non sta in piedi, secondo me. Il democratello. Non c'entra niente. Che c'è? Pronto? Che sei? Aurora, ti chiamano al telefono. Sono della zanzara quelli. Ma che c'è? Ma non c'entra niente con la radio. Ma non è fantastica, Aurora, ma con chi stai parlando? Aurora? No, perché pensavano... No, niente, scusa, mi sono distratta. No, mi hanno chiamato per dirmi che quelli del... della radio, della vostra radio, vogliono chiudere Radio Padania, ma gli ho detto che Milan non c'entra niente. No, cioè in diretta ti hanno detto come fai tu a intervenire a Radio 24 che vogliono chiudere quelli. Ma sì, ma mandato il messaggio, gli ho risposto, non ci credo. Milan non c'entra niente. No, no, non io non voglio chiudere Radio Padania. Anzi, no, assolutamente. Anzi, ricordiamo che Radio 24 è la seconda radio migliore in Italia e più ascoltata dopo. Non c'entra niente Milan. Diglielo Aurora, io non c'entro niente, ma chi è che ti importuna? Per un'altra trasmissione di Radio 24 che ha invocato la Jihad contro Radio Padania, ma Milan è quello bravo. Va bene Aurora, ma non ho capito, chi è che ti importuna dicendo metti giù? No, mi ha mandato il messaggio, non ci credo, niente, a posto, scusatemi. Vabbè, non ci... certo, ti ha mandato un messaggio, capito Mario, è successo questo, lo ricostruisco così, che evidentemente Cruciani e Parenzo vogliono chiudere Radio Padania, questo... E allora qualcuno è un po' infastidito che Aurora è qui a parlare su... Mi pare strano che Cruciani voglia chiudere Radio Padania, che insomma non è il tipo. Ma infatti... Ma comunque diciamo, il dato interessante è che alle 6:30 di mattina c'è qualcuno che si sveglia per dire alla Luzzana per andare a parlare da Milan, che è una cosa surreale e meravigliosa. Esatto, dice che ci fai Aurora? Metti subito giù da quella radio disgraziata che vuol chiudere Radio Padania. No, ma scusa, cosa c'entra Milan? Questa è una trasmissione per bene. Ma poi scusa, ma non capisco. Ma perché? Ma c'è Cruciani vuol chiudere? Ma non ci credo, dai, ma Cruciani non lo so. È un liberale, non... Ma infatti, secondo me sarà Parenzo. Sarà Parenzo che vuol chiudere. Allora cosa c'entra Cruciani? Povero Cruciani è anche lui una persona per bene. Vabbè, ho capito, cioè adesso devo difendere anche Parenzo, lo sai. Ti obbligano per contratto. Ma no, ma perché c'è così? Ma porca miseria, ma qui si sta creando un mostro incredibile. Siamo a 24 mattino e stiamo parlando della zanzara. Ma è una roba che non si può sentire. Andiamo a sentire subito il traffico, dobbiamo riprenderci. E poi la segreteria telefonica più amata da Mario Adinolfi. 24 mattino. E il signor Galan, se ha fatto quel che ha fatto, si vedrà. Deve andare ai domiciliari e ha visto Milan in domicilio, spero che mi porti anche a me. Il mezzogiorno è come se fosse un grande Mose infinito da 50 anni, tutti i soldi che si sperperano servono solo per, logicamente girato in nero, per alimentare le casse dei partiti, ma ancora non l'ha capito nessuno questo, o non vogliono farlo uscire questo discorso. Milan, ma hai notato che il Matacena assomiglia molto al protagonista di quella serie televisiva sulla mafia che davano per televisione qualche tempo fa e che si intitolava Il Soprano? Ma sarà una coincidenza. Renzi deve fare pulizia nel suo partito e deve fare un accordo con Grillo. Milan, sei duro di comprandogno, le province non ci sono più. Sei andato a votare adesso per le province? No, al mattino tu ti bevi un bicchierino. Se Grillo vuole fare troppo il furbo e dice adesso Renzi e lo disturbo, perché son pronto per le trattative, ma escogita le azioni più aggressive. Per Grillo la miglior delle risposte, e tu stai facendo i conti senza l'oste. Ciao Neda, felice Paltasso. E allora è arrivata Marione negli Stati Uniti, com'è? È molto bella questa segreteria. Hai visto? Vedi, piano piano ti sto educando i tuoi... Hai visto. Meglio, a proposito, ma lì avete... riflessione, questa cosa finale che era pure divertente. Hai visto. Migliora. A proposito, ma hanno esultato lì per gli Stati Uniti? gliene frega niente. Mamma del mia, no, cioè, no, c'erano luoghi di ritrovo in tutti gli Stati Uniti, hanno visto la partita all'aperto molto più di quanto è stato fatto in Italia. Stanotte, ricordiamo, gli Stati Uniti hanno battuto il Ghana 2-1. Hanno battuto il Ghana, tra l'altro, con gol negli ultimi minuti, dopo essere stati recuperati sull'1-1 negli ultimi minuti, quindi è stata una festa. Anche io sono abbastanza sorpreso, perché poi vengo negli Stati Uniti ogni anno, questo è forse il mondiale più sentito. Il mondiale più sentito. Vabbè, ma torniamo allora alle questioni politiche. Allora, la questione è: Renzi deve dialogare col Movimento 5 Stelle, sì o no? Sentite il vicepresidente della Camera Di Maio del Movimento 5 Stelle. Partendo dal presupposto che in questo Parlamento ci dobbiamo stare, noi contavamo di aprire una crisi di governo, non è stato possibile. A quel dato noi rispondiamo adesso con la responsabilità di portare a casa questi provvedimenti. Quale in primis? Una legge elettorale, perché così altrimenti siamo costretti in un limbo. Tutte le forze politiche sono costrette in un limbo in questo momento. Allora, Aurora, hai capito? Cioè, dopo che per mesi si diceva ma Movimento 5 Stelle dovete solo anche dialogare, dovete... E loro dicevano no, non si dialoga, tutti a casa, e invece adesso no. Come si cambia per non morire? Addirittura. Sì, mutamento antropologico che ci dimostra che sono disperati, visto comunque anche con Pizzarotti più o meno è rientrato tutto, perché ci manca solo che perdano il loro primo sindaco. Ma hanno usato la faccia dialogante del Di Maio, che insomma sempre è stato il più istituzionale del gruppo, e ci provano insomma a dialogare un po'. Che devono fare? Allora, aspetta che mi sto segnando tutto, così poi mettiamo su Twitter e facciamo passare anche a te una bella giornata. Sono disperati, ci provano, come si cambia per non morire? Tra poco la mettiamo su Twitter. Questo è il pensiero di Aurora Lussan sul Movimento 5 Stelle, così poi lo mettiamo e parte la gogna del social. Esatto. Marione, va bene, ho rappresentato il pensiero giusto, come si cambia per non morire, sono disperati, ci provano. È testuale. Quindi adesso tocca a lei. Io ieri mi sono preso i miei antipatizzanti per la storia del matrimonio omosessuale, quindi certo. Il matrimonio omosessuale. Si è arrabbiato, ieri ha twittato a un certo punto ad Inolfi: non passerà mai questa cosa, siamo pronti alla guerra. No, ma dai, Mario, non può passare. Ma dai, la guerra. Lo dico a Matteo Renzi tramite Radio 24, questa cosa scordatela, perché la stepchild adoption non è nient'altro che l'adozione omosessuale, anzi apre proprio la strada all'utero in affitto, a tutte quelle robe lì che sono pratiche, francamente. Sapete che nel libro a Marione Voglio la mamma si scaglia contro tutte queste aperture. Disumane, aperture disumane. Disumane, dice. Ecco, vedi, sei d'accordo con Aurora Lussana? Capito, Mario? I figli non si fanno senza mamma, caro Alessandro Milano. Non si fanno i figli senza mamma. Questa cosa Renzi la sa bene e se la mette in testa al Parlamento italiano. Non nascono figli senza mamma. Vabbè, questo è abbastanza, come dire, la natura è così, però che c'entra? Vabbè, ma insomma apriamo però un altro dibattito, poi torneremo magari su questo dibattito. Però Mario, dimmi in conclusione, insomma, che devono fare Renzi, il Movimento 5 Stelle? Cioè, ti stupisce questa apertura del Movimento 5 Stelle o hanno capito? Ragazzi, io penso che l'ho già detto anche da te, Renzi è stato eletto il 25 maggio imperatore. Quindi decide quello che vuole adesso, tra cui può anche decidere di farsi la discussione con 5 Stelle. Il problema del 5 Stelle è che propone una legge elettorale sconclusionata, francamente. La loro legge elettorale, che si chiama Grillinum, non so come l'hanno chiamato. Democratellum. Quello che è, insomma, è una legge elettorale proporzionale, con le preferenze negative, una cosa strana, francamente, non potabile. Io le leggi elettorali le adoro, io sono uno tra i pochi italiani che adora le leggi elettorali, tutta i cavilli. Sono un po' malato. Ecco, la loro legge elettorale non sta in piedi, sostanzialmente. E di fatto sta in piedi solo la legge della consulta, quella che è uscita dalla Corte Costituzionale, proporzionale, con preferenze, amen, si va a votare così, secondo me alla fine andrà così. Andrà. Tutto il resto deriva e dipenderà dall'imperiale decisione di Matteo Renzi. Imperiale, l'imperatore Renzi, vestiremo quindi con Aurora. La ricetta, Aurora, mi devi dire in 20 secondi la ricetta di oggi, attenzione. No, una cosa semplice, faccio un po' di pancò maridà. Che cos'è che fai?

A Milano, perlomeno in centro, sono i fighetti e i benestanti a usare la bicicletta. Sono loro che scassalano anima a tutti, perché hanno scoperto che Milano non è Amsterdam e che nessuno li sopporta più. Vivono in zone centrali o semicentrali, spesso non hanno colore politico e possono permettersi di pedalare senza abbruttirsi sugli orridi mezzi pubblici che premono dalla periferia, ondeggiano pericolosamente, caracollano in mezzo alla strada, come a dire che l'errore sono gli altri, l'errore siamo noi, noi che ci limitiamo a correre e a brigare come Milano fa da un'ottantina d'anni. E allora compratevi un'elettrica o un'ibrida se non volete la macchina, voi ecologisti chic. A Milano hanno già fatto tanto per i ciclisti, piste che ogni giorno sono maledette da migliaia di ordinari non ciclisti. Penso alle piste sui bastioni che ingorgano mezza città per favorire qualche casalinga che corre a casa a prendere il SUV di 8 metri da piazzare davanti alla scuola del figlio. E però no, i ciclisti vogliono di più. Ti citano Bilbao, Reggio Emilia, come se avesse un senso. Ma Milano è una metropoli che non è stata concepita per le biciclette, punto. Se fosse concepita per le biciclette non sarebbe Milano. Le facciano nelle periferie le piste ciclabili, quelle dove i ciclisti non hanno la sella di cuoio né il cestino di Vimini col fiocchetto. Invece no, dobbiamo beccarci la predica dalla prima pagina del Corriere. Così Filippo Facci, insomma, si scaglia contro i fighetti in bicicletta. Ma siamo al momento conclusivo, la carta costa oggi va alla Stampa, che dedica una pagina a Pitti e va bene, apre Pitti a Firenze, ma guardate il titolo: vestiremo alla Renzi. Alla Renzi! Ci sono gli stand, Renzi contagia gli stand, Maria Corbi racconta i toni blu, l'azzurro, le giacche di lino, le giacche alla Fonzi, ma dai, manca la geografia. Il primo che si candida alla geografia vincerà la carta costa per sempre. La geografia di Matteo Renzi, manca questo, candidatevi. 24 mattino. Quando sono le 8 e 19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Ci sono giorni come quello di oggi in cui la cronaca nera è entrata prepotentemente nelle case di tutti noi, nelle case di tutti gli italiani. Basta prendere in mano qualsiasi giornale e vedere che i maggiori giornali aprono proprio sulle vicende, due vicende di cronaca nera. Si era già capito ieri quando si era imposta la storia di Carlo Lissi, che in mattinata di ieri ha confessato l'omicidio della moglie e di due figli. Uno di 5 anni, uno di 5 mesi, poi è andato a vedere la partita Italia-Inghilterra come nulla fosse, questo sabato scorso. Ma poi la notizia che in qualche modo ha addirittura messo in secondo piano questa vicenda già brutale è quella dell'arresto del presunto assassino di Yara Gambirasio. L'annuncio è stato dato dal ministro dell'interno Alfano in persona, individuato l'assassino di Yara Gambirasio, omicidio di 4 anni fa a Brembate. L'uomo fermato, lo sapete, ha 44 anni, ormai ne hanno parlato tutti, fa il muratore, si chiama Massimo Giuseppe Bossetti, e vogliamo parlare di questo con Gianluigi Nuzzi, collega che conduce Segreti e Delitti, partito venerdì 6 giugno in prima serata su Canale 5. Buongiorno Gianluigi, eccoci qua. Buongiorno a voi. Allora, che dire, quello che possiamo dire intanto è che Bossetti per il momento non ha detto nulla, pare che abbia detto sono sereno, non parlo, si avvale della facoltà di non rispondere. La domanda che si pongono tutti è perché c'è questa certezza da parte degli inquirenti, Gianluigi? Ma è poco semplice, è anche molto complicato. In sintesi, gli inquirenti negli ultimi 3 anni hanno fatto delle investigazioni a doppia tenaglia, da una parte quelle classiche, tradizionali sul territorio, e dall'altra parte la spinta decisiva è arrivata dalla famosa raccolta del DNA, cioè essendo stata trovata una traccia di DNA sugli indumenti di questa povera bambina uccisa 3 anni e mezzo fa, è stato cercato di rintracciare di chi fosse questo DNA, e si è scoperto che questo DNA praticamente era come dire compatibile con quello, era di un parente di una persona defunta. Allora hanno battuto tutta la zona per cercare questo parente, che era un figlio illegittimo del Guerinoni, che era un autista di Pullman. Ecco, lì diciamo si è intricata tutta la vicenda. Pensate che oggi i giornali raccontano di come si è andati a scovare evidentemente un amante di questa persona che nel frattempo era morta e aveva avuto un figlio. Eh sì, perché hanno visto che non erano i suoi figli naturali, quindi hanno dovuto cercare un amante, ma parliamo di un amante di un uomo di 40 anni fa. Quindi si è dovuto scavare nei ricordi dei paesani di queste vallate bergamasche per ritracciare questo figlio. Poi si è scoperto una cosa, che questo che non era un figlio, ma questi figli illegittimi erano una coppia di gemelli. E qui c'è stata una svolta, hanno individuato finalmente questo muratore, l'hanno fermato con la scusa di fargli un controllo con l'etilometro quando lui era guida della sua auto, quindi lui senza sospettare di nulla ha fatto il controllo, ha lasciato la saliva e con la saliva hanno visto che questo DNA è compatibilissimo con quello delle tracce di DNA. Si parla Gianluigi di una compatibilità credo del 99,9%, no? Questo è il dato. Eh sì, poi quindi lui dovrà spiegare perché c'era questa sua traccia. Cosa ha fatto? La cosa che anche ieri sera ne parlavamo a Segreti Diritti, era la cosa che lascia stupefatti, è questa, la capacità di custodire dentro un silenzio, dentro un segreto di questo tipo, dentro se stessi, di portarlo avanti da una parte, perché questo uomo ha una vita, come dire, come tutti noi, ha tre figli bellissimi, li porta a scuola, li porta tutte le domeniche a messa, anzi dicono i vicini, un fatto anche questo che mi ha fatto sorprendere, i vicini dicono, lui era molto protettivo nei confronti dei figli, li faceva uscire fuori poco, perché fuori, dico io, chissà cosa può accadere, e lui se la persona lo sa benissimo. Tra l'altro si è molto raccontato, e ci sono anche delle polemiche, Gianluigi, che interrogano un po' tutti noi che facciamo informazione, ma anche, io dico, il ministro interno in persona, Angelino Alfano, che ieri ha individuato l'assassino di Yara Gambirasio. Mancava la parola presunto, forse, no? Perché sono tutti presunti, anche qualora confessasse sarebbe presunto, diciamo, visto il garantismo che ci deve essere fino alla condanna eventuale. Come ci si pone di fronte a questi casi in cui ovviamente la faccia del presunto mostro è già stata sbattuta in faccia a tutti? Dobbiamo ricordarci che solo un paio di anni fa c'era stato quel marocchino Fikri, ti ricorderai, le intercettazioni telefoniche lo fecero anche lui salire sul patibolo del mostro. Qui abbiamo qualcosa di più, non abbiamo delle intercettazioni telefoniche, abbiamo una forza potente di prova che è data da quella del DNA. Però hai ragione tu, Alfano si è fatto, come dire, prendere da una sintesi un po' giornalistica, quando qualche volta i titoli sono strillati, si diceva una volta, no? Cioè quando la sintesi va oltre la realtà. Qui c'è il diritto di presunzione di innocenza e c'è il diritto anche purtroppo dell'errore, però veramente siamo in un campo statistico minimale. Anch'io, mea culpa, ho fatto dei tweet ieri dicendo catturato l'assassino, e però ho visto anche una bella reazione garantista come la tua, che io condivido dall'altra parte. Purtroppo da una parte abbiamo desiderio di giustizia, che non deve essere una giustizia sommaria, e soprattutto dobbiamo imparare, sai da chi? Dobbiamo imparare, secondo me, permettimi, dai genitori di Yara, di questa bambina. È vero, che hanno mantenuto un atteggiamento straordinario. Di una dignità assoluta. Per parlare del DNA, oggi Repubblica racconta le 18.000 provette per cercare la verità. È facile a dirsi, ma 18.000 sono tante. Questo per far capire perché si dice perché 4 anni per setacciare. Ma provate voi, voglio dire, a cercare 18.000 DNA con questo intreccio, poi una persona che ha avuto un figlio illegittimo da un amante, nel frattempo questa persona è morta. Insomma, è stato un lavoro incredibile, no? Ma c'è stata un'ostinazione degli inquirenti che anche qui noi magari criticavamo questo, dicevamo questa inchiesta è solo scientifica, cioè non si possono fare le indagini solo sul DNA facendo a campioni intere vallate, bisogna consumare le suole delle scarpe, ma nello stesso tempo, cosa che non sapevamo in realtà, queste suole venivano consumate e anche assai dagli inquirenti che cercavano di recuperare, come dire, di attingere dalla memoria dei vecchi, dei paesi, un dettaglio scabroso, forse un segreto del Guerinoni, per capire con chi avesse fatto questi... Ma d'altronde senza questi segreti da scavare non si sapeva la persona... Non si sarebbe, No, no, ma non sarebbe scoperta la madre del presunto assassino, certo. Lo dico perché abbiamo per la prima volta forse in Italia una congiunzione perfetta, una perfetta da una parte dell'investigazione della scienza, quindi il recupero del DNA con queste mappature di intere settori di popolazione, perché 18.000 persone sono in quelle vallate vuol dire interi paesi, ovviamente non siamo a Milano, a Roma. Dall'altra parte abbiamo il recupero, dall'altra parte abbiamo anche dei grandi dolori, abbiamo il dolore della moglie di questo muratore che non sapeva nulla e che ieri gli hanno perquisito casa e portato via il marito. E anche della sorella gemella a questo punto. Della sorella gemella, abbiamo il dolore dei Guerinoni, dei parenti che si trovano sbattuti in prima pagina senza nessuna responsabilità oggettiva, abbiamo l'enorme infinito dolore dei genitori ovviamente di Yara, che lascio per ultimi perché sono i primi che si trovano in questa situazione, e dove la cattura del presunto colpevole riapre senza pietà una ferita ovviamente che non è mai stata neanche tamponata. No, ma questo certamente. Allora io per concludere, Gianluigi, c'è da dire che appunto passa in secondo piano quella che è una notizia ieri mattina già brutale, cioè come si fa, ma qui non so quali parole si possono spendere per un atto, come definirlo, di follia, di lucida follia di una persona che ammazza la moglie e i figli e poi si fa tranquillamente la doccia e va a vedere una partita di calcio come se nulla fosse e poi confessa e dice: e ora datemi il massimo della pena. Guarda, materiale più per psichiatri forse che per inquirenti a questo punto, no? Ma guarda, da quello che i pezzettini di questo mosaico che è largamente ancora incompleto, cosa possiamo dire? Possiamo dire che quest'uomo sembra che lui fosse innamorato di un'altra persona e aveva una figlia in casa o un figlio in casa di 20 mesi, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che evidentemente non ha saputo gestire queste situazioni nelle quali chiunque può trovarsi a precipitare. Dall'altra parte c'è una famiglia strepitosa, perché questa mamma faceva i dolci tutti i giorni per i suoi figli, cioè queste immagini belle, sane di una mamma dedita ai figli. Dall'altra parte c'è l'assoluta crudeltà nell'esecuzione di questo omicidio, che non c'è solo violenza, non c'è solo rabbia, ma c'è anche crudeltà, e c'è la incapacità di leggere anche di tutti, perché questo uomo quando si siede a vedere la partita gli amici lo vedono e lo descrivono come tranquillissimo. Chiaro, così ha passato il sabato sera. Ma insomma io devo dire che se poi volete oggi sui giornali, e non capita spesso, le prime 5, 6, 7 pagine anche dei giornali generalisti come Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, sono proprio dedicate a questi due fatti di cronaca clamorosi. Io ti ringrazio, Gianluigi, ovviamente, grazie per essere stato con noi. Ricordo sempre il venerdì sera Segreti e Delitti in prima serata sul canale 5. Grazie a Gianluigi Nuzzi, e dopo la pubblicità invece torneremo alle cose alle quali siamo un po' più abituati, e cioè parlare di politica. Avete sentito che c'è un dialogo aperto sulle riforme, avete sentito, e lo faremo risentire anche il premier Matteo Renzi, che dice è la settimana decisiva questa per le riforme. Io quando l'ho sentito un pochino sono sobbalzato, ma ripartiremo da qui. Il dialogo tra Renzi e Berlusconi, tra Renzi e il Movimento 5 Stelle, tra Renzi e forse la Lega, tutti adesso che vogliono fare queste riforme, le rifaranno? Le faranno? Chi lo sa? 24 mattino. Allora, sulle riforme, che succede? Ci avevano detto che Renzi avrebbe incontrato Berlusconi per rilanciare il patto sulle riforme. C'era anche una data, la data la settimana scorsa era oggi, martedì 17 giugno. E poi che è successo? È successo però che inaspettatamente il Movimento 5 Stelle ha aperto a Renzi dicendo: discutiamo, noi abbiamo una proposta di legge elettorale, la chiamiamo Democratellum invece dell'Italicum, e discutiamo di questo. È quel Movimento 5 Stelle il cui leader Beppe Grillo ha definito figlio di Troica, ebetino, Renzi, scritto Renzie con la IE come Fonzi, fino a questo momento il Presidente del Consiglio, ma che ora dice effettivamente prima era legittimato solo dal PD, ora il voto popolare alle europee ha legittimato Renzi. Renzi, noi non abbiamo vinto e quindi pragmaticamente è giusto dialogare. Che succede? Quindi Renzi chi incontrerà? Incontrerà ancora Berlusconi, con il quale vige il patto del Nazareno? Incontrerà invece il Movimento 5 Stelle? Intanto Matteo Renzi che dice ieri? Dice questo. Un mese fa sembrava che ci avessi la peste, io dicevo Renzi può fare le riforme, ora sono tutti per fare le riforme. Beh, si tratta di mettersi intorno a un tavolo, o meglio ancora via email, che si fa prima, e cerchiamo di essere operativi. Questa è la settimana in cui le cose si decidono. Questa è la settimana decisiva. Io sapete che le conto, siamo alla 59esima settimana decisiva di questa legislatura per la riforma elettorale, però questa pare quella in cui si decide. Saluto Maurizio Bianconi, onorevole di Forza Italia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, dottore. Così come Daniele Martinelli, giornalista e blogger del Movimento 5 Stelle, siete già stati i nostri ospiti. Martinelli, buongiorno, eccoci qua. Buona giornata. Allora, intanto Martinelli, che bella conversione da ebetino a uomo col quale si può dialogare, insomma, il pragmatismo della politica? Ma probabilmente sì, è un po' un'inversione a U che pone adesso il movimento di fronte a un'esigenza evidente di capitalizzare il voto che ha ottenuto alle recenti politiche e soprattutto anche di risaldare certamente gli risultati che sono stati ottenuti alle europee, che comunque è stato un buon risultato per un partito che comunque esordisce a livello internazionale, quindi sul piano europeo. Però vedi, non c'è di mezzo Grillo in persona. Grillo si presta con il blog, con i post, con gli annunci. Finalmente, dico io, da elettore del Movimento 5 Stelle posso dire che interverranno i ragazzi, cioè i Di Maio, i Toninelli, cioè coloro che fanno politica, gli estensori delle leggi, quindi coloro che in qualche modo cercheranno di interagire, cercheranno di ottenere qualche risultato. Non ti so dire con quale successo, perché è vero che finora c'è sempre stato un muro contro muro, anche se comunque c'è da dire che il Movimento ha sempre detto usiamo l'aula parlamentare come luogo di discussione e non le stanze chiuse all'esterno. Io non so se questa virata potrà anche comportare incontri extraparlamentari, diciamo, sì, così. Sì. Io mi auguro di no e non credo che sia questa la linea. Il punto è che adesso francamente non so nemmeno che punti potranno esserci di incontro, visto che fino ad oggi, al di là poi degli insulti reciproci, perché anche Renzi ha insultato Grillo in più di un'occasione, non saprei dirti quali siano i margini di trattativa quando c'è un premier che si chiude in una stanza con un pregiudicato per confezionare, pianificare una legge di fatto incostituzionale, cioè gli cambi il nome, ma la lasci ancora con le liste bloccate, soprattutto con numeri drogati, perché con una maggioranza, con un numero piccolo ti garantisco una maggioranza grande sulle coalizioni, quindi un accordo già preso, e che è una legge elettorale esattamente diversa da quella che è stata confezionata dal Movimento 5 Stelle col voto popolare, la prima vera legge elettorale del popolo, che intanto non è maggioritaria ma è proporzionale. Insomma, però ecco, scusami, tu poni questa questione a dire noi abbiamo la legge elettorale, non so però, visto che la promuoviamo, quali margini ci sono, visto che Matteo Renzi si chiude a fare tutto con un pregiudicato. Credo di non sbagliare, Maurizio Bianconi, se si riferiva a Silvio Berlusconi. Credo proprio di non interpretare male, no, quando Martinelli parla di... Non interpreta male, tecnicamente dice una cosa giusta, come se si chiude con Grillo si chiude con un altro pregiudicato, sempre da un punto di vista tecnico. Io salterei le polemiche e andrei alla sostanza. Renzi su questo tema ha, lo dico da molto, sbagliato tutto. Primo, perché le riforme costituzionali sono materia parlamentare e non possono mai essere materia di un disegno di legge governativo. Se lei pensa che il governo del CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, con l'Italia distrutta, che aveva assolutamente urgenza di delle regole per andare avanti, nonostante questo si fermò a fare le elezioni e fece eleggere una costituente che gli fece la Costituzione, lei capisce che non è che ha fatto una piccola violazione delle regole l'esecutivo che presenta un disegno di legge. Poi il duo Meraviglia, lui e la signora, dicono che vanno in fondo, che si trincerano, che blindano. Non solo. La signora chi sarebbe? La anche signora qua, Boschi. Anche qua avevo un sospetto, infatti perché li sì, la signora Boschi, sì, sì. Lei non sa di cosa parla, evidentemente. Vabbè. Dopodiché, no, ma questi programmi sono questi, sa. Sì. Dopodiché, oggi sento che lui le riforme le fa per email, io ho paura. Mentre vedo di molto buon grado quello che la conversione del 5 Stelle. Sì. Guardate, io in Parlamento ci sto e lavoro. Posso dire che Di Maio e Toninelli, i due che hanno nominato il mio contraddittore, sì, sono due deputati di qualità che, se messi in bonis, cioè a costruire un'opposizione seria, sì, possono anche offrire spunti di alternativa. Però sa cosa ha detto Toninelli oggi? Fa un'intervista, sì, al Corriere della Sera, esordisce così: noi ci mettiamo a sedere con questa premessa, l'Italicum è schifoso, il Democratellum, cioè il nostro, è ottimo. Ho capito, ma che tipo, logico, perché, che tipo di dialogo ci può essere? Ogni macellaio dice che la salsiccia è buona, poi si dopo si ragiona, cioè questo è normale. Dire che l'Italicum è uno schifo ha perfettamente ragione, lei lo sa, perché io alla sua trasmissione radiofonica più volte ho detto che l'avevo già detto. Vabbè, ma Berlusconi si incontra con Renzi o no? Io spero vivamente di no, perché se è ingiusto fare le riforme su un disegno di legge governativo, ancora più ingiusto è chiudersi in una stanza e decidere magari in 5 minuti, anche a prescindere dai pregiudicati con i quali possa parlare Grillo. Si fa in Parlamento. Su questo... in Parlamento, comunque con le regole e le prassi parlamentari. No, certo. Non siamo il Congo di Mobutu qui, neanche l'Argentina di Perón. Va bene, e Martinelli, almeno su questo, al netto del pregiudicato, siete d'accordo? Cioè non ci si chiude in una stanza, ma si segue un percorso parlamentare. Però Martinelli, chiedo, dire l'Italicum è schifoso, il Democratellum è ottimo, vabbè, ognuno vende la sua ciccia, ogni macellaio, come dice Bianconi, però non è una buona base di dialogo, no? Ma sai cos'è il problema? È che comunque c'è una differenza di base, al di là poi della struttura stessa della legge elettorale. C'è proprio un discorso che quella del Movimento 5 Stelle è il risultato quantomeno di una volontà popolare di decine di migliaia di diciamo simpatizzanti, cittadini. Ma questo di per sé è per forza un bene? Lo faccio la domanda in maniera molto laica. Cioè, siccome ha deciso il popolo, ma cosa ne sa il popolo della legge? Io non ne so niente. Se mi chiedessero di dire un parere sulla legge elettorale, entrerei nel panico. Allora, la legge elettorale è stata decisa a tappe, con tutte le sue sfaccettature, con comunque delle video lezioni di Aldo Giannulli, che è un docente a Milano, sì, è un politologo, che in maniera estremamente efficace, ti posso garantire, ancora adesso su internet, se tu vai e digiti Aldo Giannulli, trovi una decina di video nei quali lui spiega di punto in punto le varie tipologie di legge elettorale e gli effetti che producono poi nei fatti, nelle istituzioni e nella ripartizione dei seggi diciamo rappresentativi. Per cui i 30 e 40 mila che poi sommati sono circa 200 mila cittadini che nel corso di un mese e mezzo circa settimanalmente hanno costruito questa legge, non sono cittadini improvvisati, sono comunque cittadini che certamente magari non saranno dei costituzionalisti, però ti posso garantire che hanno avuto modo di comprendere con un linguaggio tutto sommato non troppo forbito, non troppo giurisprudenziale, ma con un linguaggio alla portata da parte di questo professore, le tipologie di legge che poi hanno partorito questo, che sono confluite in una proposta. Esatto, però, insomma, proporzionale di fatto, è un proporzionale con delle circoscrizioni diciamo intermedie. Capisci? Questo è il metodo. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Vorrei ripartire poi qui dall'onorevole Bianconi a capire se il metodo, visto che non le piace il metodo di due che si chiudono in una stanza, le piace di più questo metodo di due persone, di molte persone che si riuniscono in una unione virtuale sulla rete e propongono insieme e fanno una proposta che poi viene concretizzata nel Democratello. Allora, eccoci qui, onorevole Bianconi, le piace questo metodo democratico della rete di esprimersi e proporre fare una proposta? Non fa differenza fra questo metodo e un altro. Il diritto elettorale, dottore, è una delle cose più complicate che esiste nel panorama del diritto pubblico. Io me ne intendo perché 30 anni che mi ci muovo sopra, ma posso dirle che me ne intendo, ma non è che poi tante volte non mi trovi a disagio di fronte a certe cose, è complicatissimo. E la scelta degli algoritmi, la scelta dei sistemi, e la scelta è difficile, e bisogna vedere a che risultato si tende. Allora, più che sottoporre un sistema alla gente, gli andrebbe detto: vuoi o no scegliere il tuo deputato? Sì o no? Vuoi o no scegliere fra una lista? Oppure vuoi scegliere uno che già ti ha scelto il partito, collegio nominale o proporzionale? Preferisci scegliere o preferisci avere la governabilità? E già secondo me con queste tre domande molti degli italiani sbandano e... Esatto, e no, ma queste sono le domande basiche, sono queste qui. Dopodiché dentro entra il sistema. Lo stesso Dalimonte, che è un tecnico del diritto elettorale, se lei si prende cura di guardare i suoi articoli negli ultimi 5 anni, avrà cambiato opinione una sessantina di volte. Ecco, non è poi ideologico il diritto elettorale. No, ma la questione base poi è: ma questa settimana sarà decisiva? Cioè, non ho capito perché Renzi, adesso non mi attacchi la pipa, Bianconi, so già la risposta che ha sulla lingua, perché Renzi ha detto questo. Non me la dica. Renzi è un cazzaro e quindi gliela dico, e quindi dice la settimana. Lui fa quelle mail e in una settimana, cose che ci vuole un pochino l'ho più di chiesto tempo. Alla persona sbagliata, devo dire. Sì, l'ho chiesto alla persona sbagliata, vero? Però effettivamente qui non ho Renzi. Martinelli, perché dice è la settimana in cui si decide? Che cosa si decide? Cosa? Mi sembra che a Renzi stia a cuore particolarmente la legge elettorale in settimana, il famoso Italicum che si è arenato al Senato, però sappiamo che Renzi è l'uomo della comunicazione, cioè uno che con 80 euro al mese si è procurato il 40% dei voti. Vabbè, adesso questo è uno capace, non è uno... Sì, ma che succede in settimana? Non ho capito, cioè se dice così vuol dire che succederà politicamente qualcosa, se non lo sapete voi a spiegarlo agli italiani chi ce lo spiega? Cosa può succedere? Succedere di tutto, bisognerebbe consultare gli ordini del giorno delle sedute, forse sa meglio di me l'onorevole Bianconi. Bianconi, cosa c'è di nascosto? Non c'è niente di nascosto, c'è soltanto lui avrà tutti i suoi contatti per fare tutti i suoi incontrelli, ma anche se incontra Berlusconi si tolga dalla testa che questa volta è tutto, non siamo una banda di yes-men, insomma. Di yes-men, tolga proprio della perché testa. Adesso Bianconi è un siamo po'... Siamo arrivati a un punto di non ritorno, quindi quest'uomo va placato. Parlo di Renzi, non di Berlusconi. Mannaggia, va placato. E poi oggi approfittarsi di Berlusconi, insomma, Berlusconi ha processo Rubi in settimana, mi pare, quindi non so quanta voglia abbia di occuparsi di legge elettorale, sì, effettivamente. Senta Bianconi, però le devo chiedere anche questa che abbiamo letto sui giornali. Ieri ho parlato ancora di partiti un po' in difficoltà finanziaria. Abbiamo letto che il Popolo della Libertà, di cui lei è ancora tesoriere, no, mi risulta, tesoriere del niente, ma del niente, soprattutto perché quindi è lei che ha comunicato a 41 persone il licenziamento. Sì. Anche lì c'è un errore di comunicazione, ma mi sta bene tutto. E ieri il PD, lei sa che il PDL ha una amministrazione centralizzata. Sì. Cioè io rispondo dalle Alpi alle piramidi. Sì. Il PD invece l'ha regionalizzata. Quello che ho fatto io per 41 dipendenti, io e Crimi per 41 dipendenti a Roma, l'ha fatto il PD Sicilia per i suoi 13 dipendenti. Sì. Cioè ha aperto la procedura di cassa integrazione espressamente prevista dalla legge sulla fine del finanziamento pubblico dei partiti. Quindi non è un licenziamento in sé, è l'apertura dell'unica procedura plausibile per poter godere della cassa integrazione prevista. Siccome in quella legge si capiva che togliendo i soldi avremmo tolto dei posti di lavoro, opportunamente si è previsto una cassa integrazione e noi attiviamo quella. Mannaggia, noi non operiamo più, il PDL opera più, non ha più soldi, non ha più bisogno di dipendenti. Pensi che ne avevo 200, fra tutto 260, ci è rimasto purtroppo 40 persone. Ecco, ma tra l'altro dicevano 41, ma 40 in cassa integrazione, uno salvato. Ma è vera sta cosa che uno è salvato? Una segretaria me la vuol lasciare a me, a Crimi, per fare la liquidazione, ci fa scrivere tutto a noi a mano. No, vabbè, quindi avete salvato una persona. Una persona che ci vuole, perché ci vuole per forza con due che svolgono la funzione di commissari liquidatori e una ventina di milioni da pagare ai fornitori, una segretaria ce la lasciate o no? Sì, ve la lasciamo, per carità, io le avrei lasciate anche 41, anzi mi chiedo ma dove diavolo siano finiti tutti sti soldi? Ma com'è che la gente vede che i partiti, ha la percezione che i partiti siano ricchissimi di casse, di soldi pubblici, eccetera, e poi non avete i soldi per pagare 40 persone? E non ci sanno più i soldi, ce l'hanno tolti. Ma ce l'hanno tolti? Ma forse forse li avete usati male in questi anni, no? Questo non lo escludo, ma il PDL è un partito che non c'è più, quindi non ha più bisogno. Ho capito. È Forza Italia che esiste. Dovevate assumere di là tutti i dipendenti che riteneva ad aver bisogno, io ho fatto il trasferimento. Ho capito, ma l'immagine che appare oggi sui giornali è Berlusconi licenzia dei suoi dipendenti. Sarà un problema di Berlusconi. Che ci posso fare? No, niente. Però cioè, Berlusconi l'ha voluta la legge, l'ha fatta fare la legge con la fine del finanziamento pubblico. Diceva che andava finito il finanziamento pubblico. L'ha fatta fare la legge che diceva che più di 100.000 euro. E voi vi rivalete su dei poveri dipendenti. Voi vi rivalete su dei poveri dipendenti che prendevano. Ma che ci rivaliamo? Non ci abbiamo più una leva. Cioè, c'è più soldi. Ho capito, però quando gli ho detto. Forse lei ha presente no money. Non c'è più una leva. No money. Però scusi, quando io gli ho detto forse sono stati spesi male, dice lei non lo escludo. No, come faccio a escludere che nell'ambito di un'amministrazione di un partito si sia fatto male a spendere 8 milioni di euro invece che 7 su una campagna elettorale? Ma ha detto forse sono stati male, spesi male, ho detto non lo escludo. Magari con quel milione di euro risparmiato. Ma era uno stipendio a non fare niente, perché io non ho più niente da far fare ai miei dipendenti. Io solo da liquidare, pagare le fatture che arrivano, resistere ai decreti ingiustivi se mi sembrano infondati e fare un piano di liquidazione. Fine della fiera, io non la farò altro. Va bene, e queste persone sono in cassa integrazione adesso? Sono in cassa integrazione e speriamo di ricollocarle francamente tutte. Questo magari in Forza Italia. Magari Forza Italia se cresce può riassumerle, certo. Un pochino le ha riassunti già. Perché me ne ha presi in passaggio, non sono preciso, 30, 40 o 50, non sono preciso. E poi pensiamo, può darsi che li possa riassumere anche questo, o mamma altra mia destinazione, o altro lavoro. Mamma mia, piangono miseria i partiti, e questo è il dato e di fatto. I partiti non ci hanno insegnato Grillo poi che si fa la politica anche senza sedie, senza impiegati, stiamo imparando. Appunto, non ci sono più soldi per gli italiani, non ci sono più soldi neanche nei partiti. È una vicenda incredibile. 41 dipendenti di Forza Italia sono stati messi in cassa integrazione, anzi 40, una segretaria gliela lasciamo a Bianconi. Vi ringrazio Maurizio Bianconi, devo finire qui, il deputato di Forza Italia insieme a Daniele Martinelli, blogger del Movimento 5 Stelle, e con tutta la redazione, Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi. Vi do l'appuntamento insieme all'alpino Peter Bescapè domani alle 6:30 in punto. 24 mattino.